entrada se entona, pues la voz es que ti fa. Con su vecchio carretín vende frutta quello mi. La gente intorno vuol comprare e lo mio segui a cantare. Che mele, che mele, son dolci come il miele, son rosse, son rosse, son pronte da mangiare. Chi mangia le mele va sempre a gonfie vele, son buone, fan bene, le dita fan succhiar vendo pure le banane, il coco e l'ananà, tutta frutta prelibata che viene da caracare. Che mele, che mele, che mele, che mele, che mele. Che mele, ti voglio sento già quella voce che ti fa. Col suo vecchio carrettin vende frutta quello mio. La gente intorno vuol comprare e l'omino segui a cantare. Che mele, son dolci come il miele, son rosse, son rosse, son rosse da mangiare. Chi mangia le mele va sempre a gonfie vele, son buone, fan bene, le dita fan succhiar vendo pure le banane, il coco e l'ananà, tutta frutta prelibata che viene da caracà. Che mele, che mele, che mele, che mele, che mele, che mele, che mele, che mele, che mele, vi voglio mostrare.